Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Buonasera a tutti. Ritorna, la mia voce ritorna dopo la piccola excursus con Flavio per parlare del Progressy. Buonasera Jacopo e Jacopetti. Buonasera a tutti, buonasera Maurizio. Grazie a te di essere intervenuto. È la prima volta che ospitiamo un musicista jazz. È una bella cosa, è un'esperienza per me molto importante. Allarga il mio orizzonte sonoro. Dal rock, ma rock e il jazz hanno un legame sicuro, sempre stati legati. Non esiste una divisione. Rock e jazz sono la stessa cosa. Sì, sì, non ci sono proprio dei confini. Esattamente. Ci sono proprio delle interazioni tra il jazz e il rock e tra il rock e il jazz. Io penso ai dischi di Miles Davis, esatto. Sono al di sopra di ogni idea, però sono anche dei dischi rock quelli di Miles Davis. Ma anche un certo tipo di jazz rock inglese. Esattamente. Il Nucleus, Machine, il Canterbury, c'era certo, un po' di cose. Cioè, quindi non c'è divisione, è musica, con la M maiuscola. Certo. Come nasce il discorso musicale di Jacopo Jacopetti? Il discorso musicale mio è come l'aria che respiro, cioè una cosa di cui ho assolutamente bisogno. Indispensabile. Una necessità. È una necessità assoluta. Ho cominciato a 8 anni con la chitarra e da lì poi sono arrivato al sassofono per esigenze proprio espressive, in quanto a me sarebbe sempre piaciuto cantare. Però una voce infelice, per cui un bel giorno ho scelto uno strumento. Che potesse sostituire la mia voce. La tua voce, esatto. E il sassofono è la tua voce, praticamente. Esattamente, in questo caso sì. Io ricordo un episodio che hai citato tanti anni fa, Lucio Dalla, che lui diceva che era un'orchestra famosa, un'orchestra di jazz, e doveva entrare in questa orchestra di jazz, ma non c'era posto, allora si è inventato di suonare il sax. Ed è entrato in questa orchestra, poi chiaramente ha fatto tanta carriera, con i Flippe, ti ricordi Lucio Dalla con i Flippe, all'inizio degli anni 60, con Edoardo Vianello, tutta una cosa, e suonava il sax all'epoca. Quindi il discorso del sax hai sviluppato tante collaborazioni con il sax, hai fatto tante cose interessanti. Partiamo dal 1980 all'inizio, hai fondato assieme a Gianni Cazzola e Marcello Tonolo e Pietro Leverato Italian Repertory, la prima formazione di jazz con musica esclusivamente nostrana. Sì, è una bella cosa. Quella è stata da un'idea di Gianni Cazzola, che è uno dei batteristi padri qui in Italia. Cosa intendi batteristi padre? Perché ha più di 70 anni e credo, ecco, per quello. E credo che sia segnato molta gente, uno dei pochi batteristi della sua età, o forse l'unico sicuramente, che in vita sua ha suonato al 95-98% solo ed esclusivamente jazz. Ho capito. E ha vissuto di quello, quindi in periodi non così floridi, perché ormai jazz si sente un po' dappertutto, ma una volta non era semplice. Era difficile. Solo di quello. Molto lui difficile. Ha avuto anche il grande onore di accompagnare l'immensa Billie Holiday, quindi racconta sempre questa cosa con grande piacere. È proprio immensa, hai detto una cosa giusta. E da un'idea appunto di Gianni è nata questo quartetto che per un anno e mezzo credo abbia suonato in tutti i massimi festival italiani, credo li abbiamo fatti tutti, ed è stata una bellissima esperienza. Il fatto che poi ci fossero addirittura musicisti, dei jazzisti italiani che scrivevano appositamente dei brani per noi, era una cosa veramente straordinaria. È un inizio, poi le cose si sono sviluppate, altri hanno fatto questo discorso, voi siete stati i primi però. Diciamo che i primi che hanno cercato di fare unicamente un repertorio italiano, quindi noi pescavamo anche dal repertorio popolare, diciamo. Mi ricordo che avevamo in repertorio un pezzo di Bruno Lauzi, però. Che era un brano non molto famoso, o non sono neanche sicuro fosse stato composto da lui, forse dal suo chitarrista, perché una volta l'ho conosciuto e io gli ero detto, lui mi dice, no, ma questo non è un pezzo mio, è un pezzo di un chitarrista che suonava con me. Ed era un pezzo cantato in genovese. Ah. E noi l'avevamo riarrangiato ed era un pezzo molto molto carino. Interessante, un discorso molto interessante. Leggevo sempre, però, all'inizio, sì, questo è il del 1980, qualche anno prima, però tu ti sei addentrato, a proposito del progressive che abbiamo citato qualche tempo fa, qualche minuto fa, ti sei addentrato anche nel progressive. È vero questo discorso? Leggevo quella nella biografia. Cosa vuol dire addentrarsi nel progressive? Accennare al progressive, ma svilupparlo in chiave jazz? No, diciamo che lì è nato, nel senso che io avevo un amico che si chiama Sergio, avevo allora ed ho tuttora un amico che si chiama Sergio Cossu, che all'epoca era il tastierista di Mattia Bazar, che mi chiamò per fare un solo in un pezzo, in un disco che stavano registrando, e da lì mi fu chiesto se io ero eventualmente disponibile per le tournée. E da lì è nata una collaborazione che è durata anche lì un anno e mezzo. Abbiamo girato l'Italia, la Germania, l'Olanda, il Giappone, abbiamo girato un po' il mondo, ed è stata una bellissima esperienza. Quello di girare il mondo è una tua caratteristica, perché hai girato parecchie, hai fatto parecchie cose in giro, non solamente, non sì, solo come come solista Jacopetti. No, purtroppo col jazz poco, per la verità, però... Perché col jazz poco, per la verità? Perché è difficile girare col jazz. Perché è difficile girare anche adesso? Jazz tuttora. Ah, sì. Tuttora. In Italia o in giro? In assoluto, direi che a parte una decina di nomi che veramente spopolano, come in quanto jazzisti, comunque in ambito jazz e anche al di fuori dell'ambito specifico, e i vari Rava, Bollani, sì, e via dicendo, e per tutti gli altri è un po' al tirare a campare, nel senso, capito, che un musicista deve sopravvivere insegnando nelle scuole private o nei conservatori, e quindi c'è una minima parte dedicata, purtroppo, ahimè, ai concerti, e in periodi di crisi come questo la cosa ancora va. Quindi non si vive di solo jazz in Italia, è molto raro. Si fa molta fatica. Perché Bollani è stato sdoganato a Sanremo, è quello. Direi che i vari Bollani, Di Battista, sì, che hanno, esatto, sfruttato anche la kermesse aramese, esatto, la finestra sul grande pubblico, certo, ne hanno poi beneficiato. Esattamente. Bene, adesso facciamo la finestra sul grande pubblico nostro di Rock Wave. Abbiamo deciso, sì, giriamo, di solito facciamo sentire dei pezzi dal disco, li faccio sentire dopo. Noi siamo pronti a farci sentire la tua musica, il tuo sax, dobbiamo sentire il tuo sax per aprire la finestra sul mondo tuo, della tua musica, chiaramente. Allora, ascoltiamo una mia composizione che si chiama Sense of Now, ed è tratta da questo mio ultimo lavoro appena pubblicato, che si chiama Voices, e di cui parleremo. Dopo ne parleremo ampiamente, prodotto da Sergio Cossu. Prodotto appunto da Sergio Cossu, che è il mio produttore. E ho portato la base, quindi ci suono. Ma ci suoni? Esattamente, col sax, con le telecamere, vediamo tutto. Diretta a rockway.altervista.org, grazie ad Agostino e da Flavio che collaborano in regia. Adesso partiamo con la prima esecuzione di Jacopetti, col suo nuovo pezzo. Thank you. Del rock. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, una grande emozione. La prima volta che aspettiamo uno che suona sax. Sax. Veramente una grandissima emozione. C'è qualcosa, si respira una cosa diversa. Uno strumento. Perché dà un certo fascino un sax? Sicuramente, secondo me. Cosa dici? Beh, sì, io non posso solo dire di sì. Se ho scelto quello strumento, esattamente. Ma è difficile, pesante o no? No, non è particolarmente pesante. Questo è un sax tenore, sicuramente una femminuccia farebbe un po' di fatica, ecco. Però non è particolarmente pesante. Sì, dice, poi il sax è entrato spesso e volentieri nei gruppi rock. Sì, da un certo sapore, anche una certa grinta, un certo pathos. Sì, è suonato in maniera un po' diversa da come l'ho suonato io adesso, però anche lì ci sono varie sfumature, vari modi di suonarlo che cambiano il timbro e per cui diventa più adeguato poi allo stile musicale. Io ricordo i Van de Graaff Generators. Esattamente. Ah, incredibili. Ricordo una tournée a Padova, ricordo che sono venuti in fiera a suonare Peter Emmy, il grande che suonava il sax assieme con lui. Dick Smith. Esattamente, era lui. Avevamo un fascino incredibile. Questo Kill, questo pezzo fantastico scritto da Emmy, questo pezzo di 7, 8, 9 minuti, che proprio dava l'aspetto proprio del... oscuro, perché loro erano decisamente importanti, un progressive oscuro, decisamente. Sì. Però il sax è importante. Piacevano molto anche a me. Un grande gruppo. Benissimo, quindi la carriera è cominciata negli anni 70 col progressive, poi si è arrivato agli anni 80 con questa formazione creata da questo grande batterista, e poi come è andata avanti la carriera? È andata avanti appunto con queste esperienze in campo pop, prima con i Mathieu Bazar. Diciamo pop come popolare praticamente. Sì. Come Mathieu Bazar era un turnista di eccezione, uno che dava... Era un aggiunto. Loro per la verità volevano che io entrassi nel gruppo, ma io sapevo che sarebbe stata comunque una cosa momentanea, quindi poi alla fine... Com'era l'ambientazione dell'epoca dei Mattia? Ah, erano persone splendide. Credo che ci fossero pochi gruppi così così normali. Così li definirei. Hai detto giusto, così normali. Cosa intendi così normali? Perché il rapporto era assolutamente amichevole. Amichevole, normale, ti facevano sentire uno di loro. Non erano la star e gli altri. No, per dirti, dopo ho avuto un'esperienza con Ornella Vanoni. In quel caso lì eravamo il gruppo. Lei era la star e basta. Capito? Per cui anche lì venivamo trattati in maniera differente. Invece con loro ero esattamente uno di loro. Ho capito. E quindi ringrazio per questo. E quindi c'era Antonella Ruggero, la fondatrice della band, sì, la voce, sì, sì. Diceva l'ottava superiore, anche a Mina l'ottava superiore, ma lei ne aveva anche un'altra ottava superiore. Antonella è grandiosa. Visto che ha collaborato anche nel tuo disco. Anche in questo disco, sì, ma ho avuto il piacere di avere... E lì è stato un... Io gli avevo chiesto di cantarmi un pezzo, dopo lei non è riuscita ad essere disponibile per quel pezzo, e però lei ci teneva anche ad essere nel mio disco, e allora mi ha mandato un pezzo suo già registrato, da cui abbiamo estrapolato solo la voce, su cui ho costruito lo stesso pezzo riarrangiato. Ecco, adesso c'è questo sistema, questa innovazione, c'è la possibilità di far questo. Sì, una volta non si una volta sì. Io ricordo sempre, un episodio conosciutissimo, quando Frank Sinatra ha inciso un pezzo di Bono gli ha mandato il pezzo via computer, Frank con l'orchestrazione, cioè Frank non ha fatto niente, ha solo cantato, poi hanno sistemato, hanno messo tutto assieme, hanno fatto quei famosi duetti di Frank con Bono. Sì. Una volta, adesso c'è l'elettronica, c'è la possibilità. Una volta come si faceva? Era ben diverso. Non si poteva fare niente. Una volta non si potevano fare queste cose. Che era peccato, molti volevano fare questi duetti, ma c'era la possibilità. Dovevi essere presente. Una volta era più vero. Era più vero tutto. C'era meno computer. C'era meno manipolazione. E più spontaneità. Assolutamente sì. Però poi alla fine c'è il prodotto, quello che è lo stesso. Le band che sono venute qua, che vengono qua, spesso e volentieri hanno detto: noi non ci prepariamo molto, ma bisogna prepararsi il personale dal vivo, bisogna dare qualcosa, bisogna continuare a lavorare, secondo me. Sì, assolutamente sì. Tu che hai una vastissima esperienza, ma continui a lavorare anche te praticamente. Sempre. Adesso ti dico, il giorno 16 di questo mese presenterò l'album al... Ripetiamo, si chiama Voices. Si chiama Voices ed è un album dove ho chiamato 6 cantanti. Quelli qua? Per l'esattezza appunto Antonella Ruggero, che abbiamo già nominato, poi Barbara Casini, che era già presente nel mio disco precedente, Silvia Donati, che è stata una scoperta straordinaria che ho fatto recentemente, un grande amico che è Alan Farrington, poi Francesca Bertazzo Hart e Antonella Cozzolino, anche questa è una nuova amica che ho voluto chiamare perché è veramente una voce superiore. Questo è il tuo terzo album, il tuo terzo disco da solista, sì. Ne ci ben altri con altra gente, eccetera. Perché hai deciso Voices, queste voci? Voices perché appunto è un album interamente dedicato alla voce in sé, e c'è un po' di invidia sotto, nel senso che a me sì, che tu non puoi cantare. Io non posso cantare, allora dico chiamo quelli che sanno cantare, perché mi piace il fatto di riuscire a suonare con una voce. Ecco, bello questa frase, suonare con una voce, una cosa importante, fondamentale. Sì, per me sì, cioè è una cosa che mi interessa e mi piace fare. Decisamente. Io proporrei di sentire un pezzo dal disco per cominciare. Sì. Abbiamo scelto, sceglieremo chiaramente la traccia d'apertura. Sempre questa cantata con Antonella Cozzolino. Questa è Antonella Cozzolino, che è una cantante che fa parte del gruppo dei Summertime, che è un coro gospel abbastanza conosciuto qui in zona e anche oltre. E devo dire che è un pezzo straordinariamente arrangiato da Stefano Bellon, che è un vecchio amico e un grandissimo musicista nonché compositore, e ha scritto questo arrangiamento d'archi che è veramente magnifico. Where Are You, uno standard forse non tra i più conosciuti, però comunque un pezzo fatto anche da Sinatra, certo, da Sonny Rollins e da altri. E niente, posso dire buon ascolto, e se avete qualche indicazione, qualcosa che vi piace, che vi passa per la testa e vi viene da dirlo, chiamate pure. Certo, e poi anche potete acquistare il disco, chiaramente, quello è importante, soprattutto quello. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. L'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Abbiamo sentito questo pezzo d'apertura. La finestra. Abbiamo aperto la finestra. Prima abbiamo aperto la finestra suonando, adesso abbiamo aperto la finestra ascoltando. Where are you? Where are you? Che è uno standard non famosissimo che tu giustamente hai detto. Non è molto suonato, però è un pezzo molto bello. E dicevo un'altra cosa interessante, ci sono cinque diversi arrangiamenti in questo, oltre al tuo chiaramente, ci sono altri quattro musicisti che arrangiano. Sì, sì, sono cinque arrangiatori, quattro oltre a me in questo disco, e voglio nominarli tutti perché lo meritano. Stefano Bellon, di cui abbiamo appunto ascoltato l'arrangiamento di Where Are You, dopo Roberto Soggetti che ha arrangiato ancora gli archi per il pezzo che ho suonato in entrata dal vivo, in trasmissione, sì, che è Sense of Now, e poi due pezzi invece arrangiati dai fratelli Tonolo, Pietro Tonolo e Marcello Tonolo, per quattro ottoni, per tuba, corno, trombone e tromba. Bene. E quindi li ascolteremo dopo. Benissimo. Tu hai giusto, a microfoni spenti, hai detto: io comincio a suonare, l'arrangiamento è un'altra parte di manica, cioè è già fatto, per me va benissimo così. Sì, no, qua è una questione di fiducia, quando certo, ti fidi di un arrangiatore, dici: senti, io questo pezzo mi piace molto, so come lavori, mi piacerebbe che tu mi facessi un arrangiamento, e così è stato fatto. Perfetto, quindi tutto ok, senza nessun problema, perché no, ci sono, no, nulla non, non ci sono le discussioni, no, no, non ci sono, no, le interferenze, sosterò. No, no, se uno non è contento interferisce, nel senso che dice non mi piace, però nel mio caso, nel no, tuo caso non è stato così. Perfetto. 23 e 6, stiamo sentendo sempre la musica di Jaco Jacopetti. Alle 23 e 6 di solito facciamo un giochetto: i 5 dischi da portare su un'isola deserta. E anche Jacopo non può allontanarsi da questo giochetto, deve partecipare anche lui. Cioè, i 5 dischi che hai scelto, i 5, adesso si chiamano i CD. Una volta erano i vinili, che era bello, il vinile, sì, era bello. Il vinile era molto bello. Ma è ritornato qualcosa del vinile? Cosa dici? Ma io ne ho più di 1000, per cui. Però, sei un appassionato. Sono un appassionato. I primi tuoi dischi tu erano in vinile o in CD? No, in vinile. In vinile, in vinile. Chiaramente sì, li conservi a casa. Sì, sì. Si trovano ancora in vinile in giro? Si trovano. Si, si trovano. Ai mercatini. Ti ricordi come i due titoli? Ti ricordi sicuramente. Sì, sì, sì. Allora, i cinque dischi, sì, che mi porterei via sono sicuramente Kind of Blue di Quello Miles Davis. È il primo in assoluto, Miles, e sempre Miles, non c'è niente da fare. Poi ci sono nato con i Beatles, per cui qualcosa dei Beatles mi porterei via potrebbe essere il White Album piuttosto. E come mai il White Album, secondo te? Che l'album perfetto, qualcuno dice ma è Sgt. Pepper o White Album l'album più importante dei Beatles? Sono un po' diversi, forse in Sgt. Pepper un po' più geniale, o in White Album c'è tutto. White Album, sì, c'è tutto. In White Album c'è un po' di tutto. C'è l'esasperazione di Lennon, la gioia di Paul McCartney, l'inventiva di George Harrison, sì, e qualche, sì, batteria di Ringo, c'è anche qui. E anche qualche voce. E qualche voce di Ringo. Enrico, sì, sì, sì, è una funzione importante nei Beatles, sembra una funzione non da poco, ma è una funzione importantissima. No, era proprio un legante anche, e comunque aveva un modo unico di suonare la batteria, non era un grandissimo batterista tecnicamente, però aveva un suo modo, un suo mood proprio di accompagnare, il suo mood che era unico. Certo, come Charles Watts nei Rolling. Ah, certamente. 70, certo, e passa da anni, certo, però quando batte, batte sempre, sì, c'è, sì, niente, sì, da fare, un lato suo. Sicuramente. Allora, terzo? Il terzo, non sono un grande amante di Keith Jarrett, però c'è un disco che amo moltissimo, che ha fatto non tantissimi anni fa, tipo una decina d'anni fa, che si chiama You, The Night and the Music, che è un disco che lui ha registrato a casa sua, davanti a sua moglie. Ah. e gli ha dedicato questo disco. Questo disco. E sono dei temi, proprio sono standard suonati da lui alla sua maniera, ma non proprio alla sua maniera, è un po' più... più umano. Più umano, più un po' più facilone, ma però è di un'intensità incredibile. Sai, io che disco amo di Keith Jarrett? Io sono un rockettaro, chiaramente jazz non mi intendo molto, però The Colin Concert l'ho sentito centinaia di volte. Sì, il sì, disco sì. Che ha superato per la prima volta il milione di copie nella musica jazz, un avvenimento anche commerciale. Un disco favoloso, ripreso un sacco di volte, ristampato un sacco di volte. Sì, sì. Ha aperto le porte del rock a Keith Jarrett. Sì. E un altro qualcosa sicuramente mi porterei via, o qualcosa di, se potessi mettere insieme Carole King, James Taylor, per me sono una parte, una fetta del mio cuore. Tapestry, allora, di Carole King, o no? Tapestry sicuramente, Mads Lehmann, Blue Horizon, ecco, Blue Horizon. Ci fermiamo un secondo, perché quello è il disco ancora, è il pre-produzione dei Beatles. Sai che il primo album di George Harrison fu prodotto da George Harrison per la prodotto da George Harrison per la Apple. Il primo album fu prodotto dai Beatles stessi. Sì, certo. A Londra. Era un 45 giri. Dimmi. Era un 45 giri, non era un album. Il primo in assoluto mi pare che sia stato un album, però. Cioè, il 45 giri sono d'accordo, però lui incise per l'etichetta dei Beatles la prima cosa che fece. 45 giri. Può darsi, non metto in dubbio. L'album, qualcosa per i Beatles incise, sì, questo sì, è chiaro. Poi ritornò in America e il grande successo ebbe con Modest Life, Live and Blue Horizon, chiaramente. Sì. Era Elektra, Warner, quindi non più Apple. Certo. Quindi è stato sdoganato. No, era un amico di George Harrison, praticamente. Sì. James Taylor, l'inizio di James Taylor, perché James Taylor era un conduttore molto raffinato, secondo me. Sì, assolutamente sì. Tant'è che è stato ripreso. Proprio in questi ultimi anni è stato richiamato proprio da un grandissimo sassofonista che si chiama Michael Brecker, purtroppo prematuramente scomparso, esatto, sì, mi pare un paio d'anni fa, e che suonava spesso con James Taylor. E aveva fatto un magnifico solo in un bellissimo pezzo, e lo stesso pezzo di James Taylor è stato ripreso da Michael Brecker e l'ha chiamato in questo caso James Taylor a cantarlo. È un grandissimo, fatto un disco di recente molto interessante, ha avuto dei momenti di oscurità musicale, si è un po' lasciato da parte, poi si è ripreso, musicista che è un culto in America, decisamente un grandissimo artista. L'altro disco che hai scelto? Qualcosa di Sonny Rollins, credo che sia un'altra parte del mio cuore, per cui sicuramente un altro Rollins, mito assoluto. Sì, assolutamente sì. Ha fatto tante cose, però ha fatto delle cose sempre mirate. Sì. Mai tutte, sono solo cose mirate, chiaramente. È un grandissimo. Questi sono i 5 dischi di Jacopetti. Hai tirato fuori i Beatles, sono contento. Hai tirato fuori James Taylor, sono contento. E Keith Jarrett, nel mio piccolo, conosco poco di Keith Jarrett. Ma tu hai giustamente citato un disco umano, leggermente più umano, perché fa dei dischi, delle fotocopie qualche volta. Non so se sei d'accordo. Non fotocopie nel senso negativo, ma tanti dischi non uguali, però non hanno anima qualche volta. No, è il suo modo di suonare, può piacere o può non piacere, credo che l'anima ci sia, poi la musica è bella perché varia, nel senso che sono d'accordo con una te. Cosa può piacere o non piacere, però insomma lui è un grande. Ah beh, indubbiamente è un grande. Bene, questi sono i 5 dischi, ma proseguiamo la tua carriera musicale, allora... Ti ricordi com'è nato il primo disco solista di Jacopo Jacopetti? Allora, il primo disco solista mio, che risale ormai a 6-7 anni fa, è nato dopo un periodo di inattività completa. Cioè io avevo proprio smesso, di suonare. Per 6 anni ho preso il sassofono, l'ho imparato sotto il letto, ho detto basta. Perché c'era un motivo? Ha dei motivi legati al fatto che Non avevi più voglia? No, avevo voglia, ma insomma mi ero sposato. Sì, non avevi più tempo. La musica jazz, cioè il lavoro del musicista si sposa poco col fatto di essere sposato, certo, il gioco certo. Di parole. Per cui o sei sempre in giro, non era possibile insomma mantenere questa cosa. Se non che ho cominciato a suonare sempre meno, il sassofono è uno strumento che non ti permette di suonare poco, cioè o lo suoni o non lo suoni, perché se no il labbro non regge più, non. E un po' alla volta ho smesso e sono un po' scomparso dalla scena. Dopo 6-7 anni, con la fine del mio matrimonio mi sono diciamo riaggrappato alla musica, ho ripreso lo strumento, ho ricominciato a suonare e da lì a poco ho avuto questa esigenza proprio di fare qualcosa di mio e di vedere se ero in grado di ripreso i contatti musicalmente parlando. Sì, no, anche lì in quel caso lì ho ripreso i contatti dei vecchi amici, perché per me è fondamentale avere gli amici vicino, cioè di suonare con persone di cui mi fido e non solo a cui voglio un mondo di bene, perché condividiamo le emozioni, che sono credo la cosa più importante che nella vita ognuno di noi possa avere, perché se togli le emozioni dalla vita rimane, non esiste. Le emozioni sono robe più fondamentali, perché il jazz è decisamente una musica, tutta la musica è di gruppo, ma se possiamo dire il jazz è ancora più di gruppo, o sbaglio secondo te? Ecco, sotto questo aspetto il fatto poi dell'improvvisazione ti impone una interattività continua, per cui devi viaggiare assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. Quanto improvvisa Jacopo Jacopetti quando suona? Ma è quello che serve, è quello che si sente, cioè dipende dal momento. Cioè, ci sono delle sere in cui posso fare 2-3 calls di solo, altre sere in cui me ne viene solo uno e dico va bene così. Ma c'è una, non so, quando suona un gruppo rock, quando c'è l'improvvisazione, si mettono d'accordo sul palco e via, proseguono. Fai anche te? Sì, lo facciamo anche noi, però insomma tutto sta, cioè, bisogna anche capire che non devi stufare, no, devi assolutamente no. Devi capire se una cosa sta venendo bene oppure no e non intestardire. Però c'è il feeling, si sente se viene bene. Ah, no, se c'è il feeling lo senti immediatamente, se la serata è giusta lo senti dopo i primi 5 minuti. Perfetto, quindi sì, immediatamente. Andiamo avanti, secondo me questa è una serata ottima, proseguiamo con la traccia numero 2 che si intitola Ipnotica Magnetica, e questa è una composizione appunto di Antonella Ruggero e il suo compagno Roberto Colombo, che è stata completamente riarrangiata da me e di cui abbiamo tenuto solo una parte della voce originale del pezzo. Perfetto, ok. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockwave.attivista.org, ci potete vedere e sentire. Stasera in ospite a Jacopo Jacopetti. In regia c'è Agostino, una new entry, la prima volta, ma proseguirà in altre regie nelle prossime puntate. Bene, abbiamo sentito questo pezzo, allora volevi citare i musicisti, mi pare, al microfono spento. Sì, i musicisti di questo album sono diversi, vorrei citare almeno i basilari, ovviamente non tutta l'orchestra perché sennò sono più di 20. E, Sandro Gibellini alla chitarra, Roberto Soggetti al pianoforte e anche organo e tastiere elettroniche, David Boato alla tromba e flicorno, e Riccardo Biancoli alla batteria, Franco Testa al contrabbasso. E, ci sono anche Benny La Monica al trombone, e Andrea Anzola al corno francese, Glauco Benedetti alla tuba e Valerio Galla alle percussioni. E il quartetto con cui suoni? Con cui porto in giro questo progetto sono appunto Roberto Soggetti al pianoforte e tastiere, e Franco Testa al contrabbasso, Riccardo Biancoli alla batteria, sottoscritto ai sassofoni, alla chitarra, così come ho suonato la chitarra in un paio di pezzi di questo album, e alle percussioni quando riesco. È cominciato a suonare la chitarra e poi volevi cantare, ma come hai detto all'inizio di trasmissione, poi ho optato per il sax, che è una voce lo stesso, decisamente. Sì, sì. E che repertorio, oltre al disco, è presentato in quartetto? Ma in questa presentazione cerchiamo di presentare unicamente il disco, poi credo che ci sarà qualcos'altro in base agli ospiti cantanti che ci sono di volta in volta, certo. Vediamo di fare un pezzo, magari di andare incontro al loro repertorio. La prima data ufficiale di presentazione? È il 16 di febbraio. Di febbraio? Al Q di Padova. Perfetto. Possiamo anche citare il tuo sito dove si può vedere, si può sentire? Il mio sito dove si può ascoltare qualcosa di quest'album è myspace.com. Jacopo. Perfetto, dai, possiamo ascoltare qualche spezzone di questo disco praticamente. Sì. Benissimo, quindi abbiamo parlato di questo nuovo album. È stato difficile secondo te incidere questo? A me non sembra, c'è stata sempre un inizio di intenti, non ci sono stati problemi, hai trovato subito il momento ideale per incidere tutto qua. Sì, no? Diciamo è stato un progetto abbastanza complesso perché poi... Avevi pensato da tempo questo progetto? Sì, è un po' che ci pensavo e speravo fosse una cosa un po' più semplice. Un po' più semplice, ma quando ti metti a cercare magari un'orchestra vera, già ho avuto la fortuna di trovare l'orchestra del Conservatorio di Padova che ha suonato... per me praticamente gratuitamente, però ho dovuto attendere i loro tempi per cui anche qui ringrazio l'orchestra e il conservatorio stesso che mi ha permesso di registrare nell'auditorium e, che un bel sentire il maestro Massimo Pastore, certo. che ha diretto l'orchestra e che mi ha dato una mano anche lui veramente. E l'etichetta è la IGEA? No, l'Egea è la casa distributrice, l'etichetta è quella di Sergio Cossu che si chiama Blue Serge, è un'etichetta padovana. Quindi disco si potrà in qualsiasi negozio? Sì, sì, sì, sì, in qualsiasi negozio, se non ce l'hanno lo richiedono, comunque attualmente è distribuito in tutta Italia e anche in internet lo si può trovare tranquillamente. Perfetto, perfetto, quindi una cosa molto importante questa qua. Però poi non so che parere tu hai sulle etichette indipendenti, così indie che adesso ci sono praticamente. Ma nessun parere in particolare, l'importante è che le etichette poi vengano ben distribuite, se uno non si appoggia ad un buon distributore non serve a niente, dice. Serve a poco, però insomma, per carità, c'è sempre internet che è una valvola di recupero straordinaria, però sì, insomma, se uno va in un i dischi si dovrebbero vendere nei negozi. Ormai già se ne vendono, sì, molto poco. Esattamente, molto c'è poco, una notevole crisi perché la gente compra solo dei concerti. Oppure si scaricano i pezzi, oppure si copiano i dischi, eccetera. Non copiatevi i dischi. Ecco, quello è importante. Non copiate. È il discorso tipo i Radiohead che praticamente hanno lanciato prima il disco nel computer e poi l'hanno distribuito nelle case discografiche. È un'idea. Loro, i Radiohead, potevano farlo perché si chiamavano i Radiohead. Esatto. Non so se uno può farlo se non si chiama Radiohead. No, assolutamente no. Cioè, i dischi ormai si vendono solo ai concerti. Esattamente. E i concerti si fa fatica a farli. È vero. È il cane che si morde la coda. Purtroppo la crisi della discografia, non c'è niente da fare. Ci sarà una soluzione, ci sarà un giovamento in qualche momento oppure no? O sarà sempre una parabola in discesa? Basta. Io me lo auguro, però non vedo molto chiaro, non vedo molto luce. No. non sei ottimista? Non sono ottimista in questo, non credo di essere neanche l'unico. Decisamente non sei l'unico. Purtroppo è così, però c'è ancora la voglia di suonare, quella sì, è tanto. Quella sì, quella non manca. E quella è importante, basta trovare gli spazi sicuramente. Sì. C'è un po' di difficoltà con quelli. Anche con quelli, sempre per via della crisi. Ma perché moltissima gente preferisce sentire le cover di Vasco e di Liga e non sentire le cose della gente che fa le proprie cose? Ah, questo dovresti chiederlo a loro, perché io sono dalla parte di qua della barricata, per cui non lo so. Ho capito, perché forse perché è più facile, più immediato, che la gente non deve pensare. Però guarda, ti dico, io ogni tanto collaboro con un cantautore che si chiama Andrea Paglianti, che è venuto anche qua, sì, che peraltro ha fatto il testo di un pezzo del mio disco, e lui si sta praticamente autoproducendo, si è autoprodotto il disco, sta autoproducendo i propri concerti e ne fa veramente un'infinità. Quindi non trova difficoltà. Con un ottimo riscontro, però ovviamente voglio dire, lui ha anche un'altra attività, se uno dovesse farlo per vivere è difficile. È diverso. Conoscevo un cantautore che partiva da Milano e andava a suonare in Sicilia, andava a suonare molto distante per pochissimi soldi per farsi vedere, per farsi sentire. Dove farsi sentire? Sì, me la puoi fare per un periodo. Sì, esatto, l'ho fatto per il periodo. Ha preso 6 mesi di aspettativa dal lavoro e ha fatto questo. Dopo chiaramente ha lasciato il lavoro e ha fatto il cantautore, però... Quello è... È una scelta. Quella è una scelta. Decisamente difficile, però è una scelta. Un altro pezzo, cosa dici? Sì, ascoltiamo allora Alembranse che Naua, che è un pezzo che io ho composto e è cantato da Barbara Casini, che forse... la più grande cantante italiana per quanto riguarda il brasiliano. Sì. E ho chiesto a lei da una mia idea, che è appunto quella del ricordo che non hai, ricordo che non ho, di sviluppare questo mio pensiero, perché io ho avuto la sfortuna di perdere il padre da bambino. Quindi diciamo che il ricordo che mi è mancato è quello... di un padre che non c'era, perché non c'era. Quindi tutti i ricordi legati a quella mancanza sono dei ricordi importanti. Certo. Ed è venuta fuori questa cosa con molta saudade, come dicono in Brasile. E in questo caso io mi sono dilettato alla chitarra, cioè l'ho composta alla chitarra e ho detto no, questo pezzo lo voglio suonare alla chitarra. Bene. E c'è uno splendido solo di David Boato al flicorno. Certo. Rockwave, l'onda del rock. Thank you. Rockwave, l'onda del rock. Blu Radio. Rockwave, l'onda del rock. Ma c'è qualcosa del Brasile nella tua musica? Qualche piccolo momento esiste? Sì, beh, questo che abbiamo beh, questo sentito, ovviamente sì, questo. Dopo in passato, beh, anche se vogliamo, anche se l'arrangiamento non era mio, però se non mi fosse piaciuto l'avrei ovviamente non accettato. Where Are You? Certo. L'abbiamo sentito, era proprio un tipico arrangiamento di bossa nova con un arrangiamento alla Klaus Ogerman, che è stato, che è tuttora uno dei più grandi arrangiatori d'archi al mondo. E nel disco precedente c'era un altro pezzo sempre cantato da Barbara Casini, che fa parte del repertorio di una cantante brasiliana che si chiama Adriana Calcagnotto, e un pezzo che ho dedicato ad un mio grande amore che è Caetano Veloso, un grandissimo cantante e compositore brasiliano, e ho a lui dedicato un calipso che si chiama, capito, appunto Obrigado Caetano. Perfetto, quindi l'ho ringraziato con quel mio calipso. Quindi Brasile può entrare, riesce ad entrare anche nella tua musica. Sì, assolutamente. Poi c'è un altro pezzo che sentiremo dopo che si chiama Eu e a Brisa, che è un pezzo di un compositore brasiliano che si chiama Johnny Alf. E in questo pezzo ho suonato la chitarra e il sassofono con una tastiera che Roberto Soggetti ha composto. Sì, ha realizzato per l'occasione. Quindi mi dicevi a microfono spento che i pezzi che inventi, che costruisci, primi li provi alla chitarra e poi li sviluppi con sì, per lo più compongo la chitarra, saltuariamente il pianoforte, ma insomma poi la melodia la faccio col sassofono. La melodia la fai col sassofono, è importante. Però l'inizio, le prime basi provengono sempre dalla chitarra, il primo strumento che hai, cercato. È uno strumento armonico, per cui io ho necessità assoluta di avere un'armonia nei pezzi, per cui io uso la chitarra, ecco, per questo. Quindi abbiamo parlato dei tuoi dischi solisti, che sono tre, questo è l'ultimo praticamente, le tue collaborazioni, tante collaborazioni, anche della musica pop in generale. Abbiamo citato i Battia Bazzara, abbiamo citato Ornella Vanoni, e poi altre collaborazioni? Beh, ho fatto tre dischi con Eros Ramazzotti. Quali di Eros? Sì. Dunque, Musica E. Musica E. E lì ho fatto proprio tutta la suite. E quella lunga, suite lunga, esattamente. Lì mi hanno lasciato proprio... Spazio. Improvvisare, spazio. Mi ha lasciato spazio e in un pomeriggio ho fatto quello che dovevo fare. E poi mi pare, adesso i titoli non li ricordo, altri due... Un periodo centrale della discografia. Sì, sua. Sì. Ecco, se bastasse una canzone, detto Agostino, ci ha suggerito. E cos'altro? Poi con Fabio Concato ho fatto solo una canzone, che era quel pezzo famoso dedicato al telefono azzurro. Ah sì, ho capito, che aveva quel numero. Sì, che aveva il numero di telefono, proprio del telefono azzurro, e lì è stata una cosa appunto organizzata in modo che nessuno di noi percepisse nulla, quindi era tutto gratis, tutto in favore di questa organizzazione. Mi ricordo che all'epoca abbiamo tirato su un centinaio di milioni e si vendette molto quel pezzo là. C'era anche un bellissimo video, se non ricordo. Sì, è vero, esattamente. E con Aldo Tagliapietro ho fatto qualcosa, delle registrazioni in un disco suo. E beh, questo in passato. Poi la storia recente, appunto, con Andrea Paglianti, sì, nel suo disco, e poi le mie cose, fondamentalmente adesso mi sono sì, indirizzato nelle tue cose, concentrato alla mia musica. Perché chiaramente devi promuovere questo tuo nuovo disco, sì, eccetera. Che già, beh, è il tuo nuovo disco, ma ci sono tanti musicisti che sono assieme a te, cioè tanti sviluppi, tante facce praticamente, tante voci. Certo. È un'idea delle facce, delle voci, un'idea interessante, come abbiamo detto, fa parte di questo nuovo album, questo nuovo passaggio, questo nuovo ripercorrere la voce, lo strumento, la voce. Ma altri hai avuto altri duetti femminili oltre a questo disco, nei dischi precedenti, qualche collaborazione oltre a quello che hai già citato solo con Barbara Casini, nel disco precedente. Il primo album non aveva cantanti, non aveva pezzi cantati, per cui erano tutti strumentali. Solo strumentali, sì. E l'idea del primo album, ti ricordi com'è nata, come si è sviluppata? Beh, come ti dicevo, venivo da un periodo di inattività completa, per cui a un certo punto, quando ho recuperato un po' di energia e di tecnica, ho sentito la necessità di fare qualcosa di mio, di vedere, di rimettermi un po' in gioco, di vedere lì. E l'hai proposto suonando nei concerti, in giro per... Sì, questo... Sempre in quartetto? Sempre in quintetto. In quintetto, in quintetto, direi che i primi due dischi, e anche questo di base avrebbe un quintetto, adesso purtroppo per motivi economici. Cioè, siamo sempre là. Siamo sempre lì, purtroppo... Questo è comunque un progetto improponibile, perché con un'orchestra di 20 elementi oppure 4 ottoni oppure 6 cantanti, cioè non vai da nessuna parte, per cui ho deciso, lo propongo in quartetto e quando ci sono le cantanti che ci sono. Certo, anche il progetto grafico è tuo, l'idea è tua? L'idea è mia e le foto sono di mia moglie, che è una bravissima fotografa che mi accompagna sempre nei concerti, quindi lei fa le foto e poi le usiamo per i dischi. Certamente. E anche le copertine passate, però, sono sempre foto sue o quadri suoi, perché lei è un artistoide. Vedi, è ben fatto il libretto, è ben fatto, ben costruito. Di solito le etichette più piccole mirano di più alla costruzione del CD, dell'album fatto bene, del CD, non nell'album. Le etichette maggiori qualche volta non curano questo. Sono sempre costi anche questi. Sono sempre costi, però anche l'immagine ci vuole. Fondamentalmente. Sì, sì, sì. Se presenti un'immagine un po' sbiadita, ha un altro senso, secondo me. Certo. Ricordo, se parliamo di molti anni fa, ricordo i quadri fantastici di Roger Dean degli Est, o sono i quadri dei Moody Blues, di Genesis, sono cose meravigliose, perché c'era la cura anche dell'immagine del disco. Adesso ci sono i CD, sono un po' freddi, secondo me, non so se sei d'accordo. Sì. E soprattutto sono d'accordo con te, però sono freddi. Ma è la musica digitale che è un po' fredda. La musica digitale è un però po' fredda. Ormai ci siamo, sì, beh, ormai ci siamo abituati. Adeguati. Siamo adeguati. Bene, non ci siamo adeguati a sentire i pezzi tuoi, però. No, non ancora. Okay. Non ancora tutti. Sentiamo questa Guantanamera, che è un classico fatta da tantissima gente. Della musica sudamericana, che io ripropongo così in una versione in 6 ottavi. Una versione tua? Particolare, un arrangiamento mio. E Guantanamera, buon ascolto. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Thank you. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockway.altervista.org, stasera con Jacopo Jacopetti presentiamo Voices, questo è il suo nuovo disco. Agostino è in regia, una new entry che proseguirà nella sua carriera di regista. Questo Guantanamera è un pezzo decisamente pieno di pathos, di forza, velocizzato, con un pianoforte bellissimo il finale. È un po' divertente. È un po' divertente. Avevo necessità di divertire un po' l'ascoltatore, e avevo questo pezzo che mi è sempre stato simpatico, diciamo. Quindi ho detto, è un classico dei classici. Un classicissimo, però ho detto, vediamo di riproporlo in maniera un po' diversa, e è venuta così. C'era feeling, c'era volontà, c'era voglia di suonarlo, è uscito decisamente bene. Ok, visto abbiamo poco tempo e abbiamo deciso di farvi sentire quasi tutto il disco, proseguiamo con la traccia numero 6. Che traccia è, Jacopo? Questa è un pezzo che si chiama Thelonious My Dear, ed è un pezzo che ho dedicato al grandissimo Thelonious Monk, che è uno dei padri del jazz, esattamente, con un'identità musicale e pianistica assoluta. E qui ho pensato, dopo averlo composto, di metterci anche un testo, solo che io sono realmente negato per i testi. Allora ho detto, ma perché non prendo e faccio un midi di tutti i titoli dei pezzi di Monk? Okay. E così ho fatto. Ho capito. Ed è uscito questo testo, e ho chiesto a Francesca Bertazzoart, che è una bravissima cantante, di Padova, che però mi pare viva a Bassano, però insegna qui alla Gershwin a Padova, di cantarmelo, e lei è stata veramente straordinaria. Perfetto, adesso lo sentiamo assieme allora. Rockway, l'onda del rock. Thank you. Ok, giustamente tu dicevi l'improvvisazione, bravissima, proprio improvvisato alla fine. Sì, ha improvvisato su accordi di assolutamente non facili. No, è difficile, era un pezzo difficilissimo. Sì, ci sono intervalli difficili, poi un tempo in parte dispari, in parte pari. Quindi un bellissimo arrangiamento di Marcello Tonolo. E beh, proprio... ti hai messo anche il tuo qua. Sì, sì, qua ci ho messo di mio anche, sì. Quindi, beh, un pezzo veramente molto interessante. Adesso alla fine dell'album, questo Voices, questo disco che è uscito da poco, che è il tuo terzo album da solista. Sì. Benissimo, visto che abbiamo poco tempo, andiamo in sequenza. Andiamo in sequenza, adesso un pezzo di cui si parlava prima, è composto da me con un testo di Andrea Paglianti, il titolo è Serenità e la cantante che lo interpreta è la incredibile Silvia Donati. Perfetto. Rockwave, l'onda del rock. Starts to race the moment that you're near, control just fades away. And for a while, we could be anywhere, do anything we dare, forgetting every care. You set me up. Simply with that smile and your special sense of now. And soon I'm flying blind, but it's alright, I'm wild about you, dear. Come with me, who, what, why? Well, I don't mind, 'cause I want you. You're not like anyone, I'll never let you go, and there's no room for doubt. Time does fly, so we better grab it now. Why not together? We might not have a second chance. To be the one, I'll never let you down, and would never be room for doubt. Time speeds by, so we better live our lives. Why not together? We might not have a second chance. Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo stavolta abbiamo quasi finito. Sì, abbiamo sbagliato, diciamolo che sì, abbiamo sbagliato, ovviamente sì. Non era Silvia no, Donato. No, chiaramente questo, no. Questo era Alan Farrington, il pezzo era Sense of Now, quello che inizialmente avevo riproposto in versione solo suonata. Silvia Donati la sentiamo adesso. Sì, fra qualche secondo la sentiamo e concludiamo questa cavalcata nella tua, in questo Voices. Ripetiamo la presentazione ufficiale che sarà il 16, fra il 16, pochi giorni. Sì, al Q di Padova. Quindi presenterai tutti i pezzi con le cantanti. Con almeno quattro cantanti. Oh, perfetto, quindi una presentazione totale. Sì, sì, del disco. Al 99%. Al 9%, disco nuovo appena uscito. Voices, etichetta la Blue Serge. Di Sergio Cossu e distribuita dall'Egea. Benissimo, adesso concludiamo con questo pezzo cantato da questa brava cantante, praticamente, Serenità. Sì, Serenità, il testo di Andrea Paglianti, la musica del sottoscritto. Grazie. Grazie a te di aver partecipato per la prima volta in chiave jazz Rock Wave. Ci saranno altre presentazioni, altri appuntamenti. Me lo auguro, anche perché non è facile trovare degli spazi nelle radio private non per questo tipo di musica. Per cui grazie di cuore. Grazie a te, ma Rock Wave è uno spazio particolare. Grazie ad Agostino che ha collaborato in regia. Domani ci sono ancora, e purtroppo ci sono ancora, con Simona Grecce, che è una musicista di Faenza. Ci sarà il nostro grande capo, che gestirà tutto quanto. Grazie, buonanotte, e intanto sentiamo l'ultimo pezzo di Jacopo Iacopetti. Rock Wave, l'onda del rock. Farò finta che il mio mondo sia un'impressione. Lascerò poi al tempo portarmi via in ogni dove. Guarderò il mattino avvicinarsi a me. Canta la mia voce e il suono più non tace quando porto serenità. Cerco il modo di non trovarti sempre altrove, la distanza giusta, reale. La felicità cambia il volto ai nostri errori. Canta la mia voce alla città che tace quando porto serenità. Passeranno più veloci i nostri anni se non sapremo amare, se vita vorrà dire un mare di pensieri sempre uguali. Ogni giorno in più è un'attesa che non va rispettata. Ogni giorno in più è una conquista. Il sorriso di chi ha imparato ad osservare. Porta la tua voce ad ogni cuor che tace quando manca serenità. Passeranno più veloci i nostri anni.